La Rage, Kenny Arcana, Radio Onda Rossa 87.9. Sono le 16.06 e 43 secondi di questo martedì. Aspetta, che giorno era oggi? Mi sbaglio sempre i numeri. Fammelo dire agli altri. 11. 11. Buon pomeriggio a tutti, è il momento di Region Air, la trasmissione degli studenti medi auto-organizzati di Roma. Vi lasciamo all'ascolto della sigla. ...87.9 la frequenza di Radio Onda Rossa, alle 16.10 e 23 secondi. Vi annunciavamo pochi secondi fa, pochi minuti fa, l'inizio di Region Air, la trasmissione appunto degli studenti medi organizzati, iniziata per quest'anno la settimana scorsa, ma che in realtà è nata l'altro anno. E non esitate a contattarci al numero telefonico di Radio Onda Rossa 0649 1750. Devastante, era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante con il mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti, prendi questa bad hip hop. La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri, ritorsioni. Ma bisogna avere fede e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre porno minorile in rete. Chi fidarsi qua? E quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità. Via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento estraneo alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto, gnacco 0,5%. libertà. Sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, si entra e si esce di qua, si entra e si esce, da queste mappe della città, si entra e si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Luci sfocate, segni sui muri, basi occupate. Solo qui in quartiere ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti sbattono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo in anima pincella. Che vada tutta Italia. Un saluto ai compagni del carcere, auguri, vorremmo dire che stiamo lottando per liberarsi dalla necessità del carcere. La libertà degli assalti frontali, la canzone che abbiamo appena ascoltato a farci compagnia sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo avanti con Regionair. Siamo usciti all'inizio di questa settimana dal primo corteo studentesco dell'anno, il 7 ottobre, che mi azzarderei a dire che è stato un successo. Ditemi se siete d'accordo con me. È andato da paura, da paura. La città era nostra. No, li abbiamo presi per il culo tutto il tempo. Faccio la battutina di prima. Chi ci ha chiamato sta settimana? No, ci ha chiamato Eto'o, cioè il calciatore, no? Quello che si sa... No, che ve ridete? Io non lo so, mi prendono sempre in giro qua. Mo chiamo mamma, No, ci ha chiamato Eto'o veramente, perché insomma ci ha fatto i complimenti per i dribbling praticamente, perché veramente siamo andati destra e sinistra, non si capiva veramente dove volessimo andare. Lui stava sopra con l'elicottero, mi ha detto, no? Ma l'abbiamo visto. L'hai visto pure te, vero? Certo, sì. Ma è lui che ci ha dato la forza di andare avanti, di continuare. Vero. Ci indicava dove smarcare e dove no, assolutamente, senza... Certo. Beh, fantastico, insomma, questo corteo che finalmente ha dimostrato che le pratiche di piazza non sono più quelle di una volta, quelle del 2008, quando si scendeva in piazza e si sfilava, che assolutamente era una bella pratica di piazza, perché ha visto uno dei movimenti più grandi degli ultimi tempi, ma che però adesso sta cambiando, perché la gente, gli studenti, i giovani si sono veramente stufati, la situazione non è più accettabile e lo abbiamo dimostrato, se non sbaglio, no? Sì, la cosa importante sicuramente è stato dimostrarlo per il primo corteo, cioè nel senso che noi quest'anno non ci staremo zitti dall'inizio, cioè proprio gli romperemo il culo dall'inizio. Beh, insomma, queste parole, Malise, guarda. Dunque, il corteo, insomma, per chi non avesse seguito sia da questi microfoni sia dalle agenzie della rete... è partito la mattina alle 9:30 da Piramide per poi dirigersi verso il Ministero dell'Istruzione. Questo era il percorso che aveva autorizzato l'Unione degli Studenti, ma in realtà non era ben condiviso da tutti gli studenti, noi lo sappiamo bene. Dopodiché, arrivati quasi al Ministero, in realtà prima del ponte era già stata prevista una svolta a destra verso il Lungotevere per andare a puntare al centro e cambiare le dinamiche, appunto le pratiche di piazza di cui parlavamo prima, per non fare la solita sfilata, andare al ministero e fare il solito presidio che sarebbe finito là, ma di creare un conflitto reale. Punto. E la follia è stata che comunque non ci hanno fatto passare, nonostante Viale Trastevere fosse comunque bloccata per il corteo, e quindi noi abbiamo dimostrato come in questa città non abbiamo la possibilità di manifestare dove vogliamo, davanti a qualsiasi palazzo. E appunto lo slogan che abbiamo urlato di più è stato che Roma è libera, Roma deve essere liberata, perché non è possibile che noi non possiamo, quando una cosa non ci va bene, non possiamo andare sotto i palazzi del potere di sti stronzi, andarglielo a dire in faccia, non lo possiamo fare. E quindi è stato fondamentale far vedere come noi non ci siamo fermati senza alcuna violenza, tra l'altro, perché poi stavamo là con le mani in alto a dire: noi abbiamo tutti la faccia scoperta, cioè siete voi con gli scudi e coi caschi. Ed è da quel momento che è iniziato il dribbling di cui parlavamo, che Toccia ha rivendicato, insomma, per cui Toccia ha fatto i complimenti. Vabbè, finiamo sta storia, che il gioco è bello quando dura poco. E da quel momento, dopo non essere riusciti a passare dal Lungotevere, ci siamo diretti verso il Ministero, ma invece di fermarsi lì su Viale Trastevere, sede del Ministero, abbiamo continuato dritti verso Stazione Trastevere, dove abbiamo trovato un altro blocco di simpatiche personcine tutte uguali, con i caschi blu e il manganello, nero e brutto e duro, purtroppo. E siamo riusciti a svicolare di nuovo e arrivare a Stazione Ostiense, che è stata una bella conquista, perché siamo riusciti ad occupare per alcuni minuti Stazione Ostiense e ha fatto veramente risaltare il livello del conflitto a cui si sta arrivando quest'anno. Sulle note di Johnny B. Goode, Chuck Berry, volevamo lanciare un appello a tutti i giovani musicisti e artisti che ci stessero ascoltando. Mandate una mail a regionair@ondarossa.info per avere la possibilità di intervenire in trasmissione. Naturalmente a noi farebbe moltissimo piacere, per darvi uno sbocco al pubblico, appunto, una possibilità di confronto con il pubblico. Interrompiamo l'ascolto di Kalashnikov di Goran Bregovic perché abbiamo un collegamento lampo con un compagno di Prati che ci spiegherà di un'iniziativa che è in corso adesso a Roma, insomma un progetto che sta appunto per ricollegarci avanti. Col discorso che stavamo facendo prima, vogliamo parlare della riappropriazione dei nostri spazi non solo in piazza per andare a manifestare ma anche come spazi di coesione per noi giovani e non solo per tutte le nostre iniziative, appunto questi spazi mancano dentro Roma e questo nostro amico è qui appunto, ci senti? Sì. Ok. Ti sento Annalisa. Ok, è qui per raccontarci insomma un'iniziativa che sta portando avanti all'interno di Prati, adesso ci spiegherà bene lui, a Piazza Bensizza, in quello che a breve sarà l'ex deposito ATAC. Raccontaci un po' insomma questa iniziativa che stai portando avanti te, che è molto interessante e coinvolge tantissimo noi giovani. Allora, io mi sono inserito in un percorso di cui già si sta parlando da anni per la rivalutazione, per il riutilizzo di diversi spazi che nel 17° municipio, soprattutto a Prati, sono abbandonati in disuso o sono stati consegnati al sistema malefico del project financing che poi ha prodotto tanti interessi privati e veramente poca roba per il pubblico. Mi sono inserito in questo percorso perché già da tempo che studiando filosofia e facendo molta attività politica pensavo a un metodo, diciamo un modello di riutilizzo di tanti spazi disabitati, pagati con la spese dei contribuenti nei decenni passati, quando insomma in Italia si stava meglio che attualmente, e studiando i socialisti utopici, studiando vari esperimenti che sono già stati fatti anche al giorno d'oggi, soprattutto in ambito cristiano, devo dire, in giro per tutta Italia, ho elaborato insieme ad altri un progetto appunto di riutilizzo di questi spazi che prevede l'insediamento di una comunità permanente, da cui il nome di progetto Chiara, ovvero co-housing di innovazione artistica, residenziale e amministrativa, la quale si occupi, lavorando al di fuori per metà della giornata o comunque per una certa quantità di tempo e riportando i proventi del lavoro indipendente dentro la struttura, si occupa poi all'interno stesso della struttura di organizzare il calendario artistico, di organizzare il volontariato e di accogliervi per un certo periodo chiunque ne avesse bisogno, con gli studenti e lavoratori fuori sede e in contatto con relative associazioni anche senza tetto, anche extracomunitari, anche zingari, sfrattati e quante altre categorie abbiamo bisogno di assistenza e di bypassare le spese di affitto per un periodo. Questo è un progetto che appunto ho elaborato e la prima di queste strutture, il primo progetto Chiara, ho pensato proprio di spingerlo per questa rimessa di Bensizza. Perché? Anzitutto perché le richieste del 17° municipio da parte dei vari comitati cittadini vanno già da molto tempo, come è naturale che sia, in direzione di una grande zona verde che dovrebbe rimpiazzare tutta l'attuale parte cementificata della rimessa, dove non sono costruite palazzine ma c'è soltanto cemento, dove appunto un tempo i miei automezzi si sostavano per la revisione e per passare la notte. Quindi questa zona verde sarebbe di grande aiuto per qualunque tipo di attività si potesse fare all'interno del progetto Chiara. Secondariamente la rimessa di Piazza Bensizza a 100 metri dalla RAI e quindi gli occhi di tutta Italia e con i contatti giusti, giornalisti, telecamere, riempirebbero di inchiostro le colonne di tutti i giornali e di tutti i telegiornali d'Italia su questo progetto e quindi permetterebbero, se funzionasse, una rapidissima espansione di progetti Chiara che appunto potrebbero andare a toccare mercati abbandonati, scuole abbandonate, strutture di ogni tipo in tutto il paese e quindi aumentare moltissimo la mobilità sociale e aumentare soprattutto l'offerta culturale. Offerta culturale che appunto si avverrà degli studenti dei conservatori e delle accademie, che si avverrà anche di persone di talento indipendenti che non hanno attualmente modo di esplicare la loro arte e che spero che prima o poi, seguendo anche i dettami di William Morris, si possa allargare alla produzione artigianale e quindi anche a livello produttivo di, non soltanto a livello intellettuale della vita in comune. Rendo noto che i progetti sono sostenuti anche con il commercio latino, che è inaugurato nel bolognese dal professor Segre, con il quale sto proprio prendendo i contatti in questo periodo. Certo, okay. Volete sapere? No, infatti, questa iniziativa appunto fantastica e che aiuterebbe tantissimo tutti noi giovani a trovare uno spazio, come dicevo prima, appunto di coesione all'interno del proprio quartiere. E poi appunto noi sappiamo che questo progetto prevede un'iniziativa di lancio, no? Se ci vuoi un po' raccontare anche questa iniziativa con le scuole medie, sì, allora, anche di musica. Ma certo, naturalmente quando si propone qualcosa bisogna farlo nel modo giusto, appunto questo è uno dei massimi, ne hanno parlato anche molti pensatori importanti di questo, purtroppo non si può sperare di proporre le cose a livello puro poi nella veste sbagliata, perché gli uomini sono fatti di razionalità, ma sono fatti anche di carne, sono fatti anche di sentimenti e di percezioni, bisogna far loro vedere le cose giuste per avere la giusta credibilità. Proprio oggi al 17° municipio, su mia iniziativa, ho voluto approvare questa manifestazione che si terrà il 25 novembre, proprio lì nella zona della rimessa, a via Montenero. Questa manifestazione durerà una giornata intera e sarà più che altro una festa per chiamare sia le persone del quartiere interessate alla zona verde, sia le persone di tutta Italia, e quando dico di tutta Italia intendo di tutta Italia, perché arrivano delegazioni dal Bresciano, delegazioni dalla Liguria, da Sarno e da ogni altro luogo. Che è successo? Penso ci sia un piccolo problema tecnico, è arrivata una chiamata e è caduta la linea. Torniamo subito. Ripresa la linea, continuiamo la corrispondenza interrotta poco fa da un errore tecnico. Eccomi, di cosa vi stavo raccontando quando è caduta la linea? Del 25 appunto, di questa bellissima iniziativa del 25 novembre. Oh, allora il 25 che cosa vedremo? Innanzitutto vedremo la convocazione diretta delle scuole, che spero che riusciremo a far venire in orario scolastico con i docenti, come evento ufficiale dei 5 maggiori istituti superiori del quartiere. Perché appunto i ragazzi giovani sono coloro che sono più direttamente interessati dai progetti Chiara, perché saranno loro che ne fruiranno quando mai, si spera, si diffonderanno come una lebbra in tutta Italia, quelli che adesso sono al liceo saranno lavoratori in quegli anni e quindi sono i più direttamente interessati. Aggiungiamo che tutti quanti i grandi spazi disponibili al pubblico che fanno parte dei progetti Chiara possono essere utilizzati come spazi di studio, spazi certo, di riunione, spazi di incontro dei ragazzi fin dal giorno stesso in cui aprissero. Quindi abbiamo chiamato loro, anzitutto. Poi ho pensato di chiamare due orchestre, l'orchestra di una scuola media, della scuola Belli, che è una scuola media del nostro quartiere, e invece una bellissima orchestra indipendente nata insieme al conservatorio, senza nessun finanziamento pubblico di nessun tipo, né privato, fondata da un intraprendente compositore e direttore polacco che si chiama Paweł Gorajski, che ha avuto questa incredibile idea e vorrei veramente che lui partecipasse, perché è uno di quei idealisti di cui vale la pena di sapere qualcosa e a cui vale la pena di dare attenzione. Interverranno altri grandi personaggi del mondo della cultura, del teatro, della musica e chiaramente poi speriamo anche di affacciare una bella prospettiva su tutto l'aspetto del volontariato, quindi spero di riuscire a contattare persone che lavorano nel campo dei servizi con i pazienti psichiatrici, con i disabili, con le categorie a disagio di tutte le nostre città. Spero che persone di questo tipo, responsabili in quei campi, possano venire a raccontarci la loro esperienza affinché noi ne siamo più arricchiti e più invogliati a continuare a perseguire questo obiettivo. Fantastico, veramente. Guarda, noi ti facciamo tantissimi complimenti e appunto ti rinnoviamo, come già sai, la nostra partecipazione all'evento in tutti i sensi, come studenti appunto sia a scuola che non, il nostro aiuto comunque, e ancora tanti complimenti e grazie mille per la corrispondenza. Va bene, se non volete sapere altro, anche io vi ringrazio tantissimo di questa opportunità, vi auguro un buon proseguo di trasmissione. No, ecco, io in realtà, una domanda, sì, la volevo fare. Ti ho sentito prima citare il municipio, che da quello che ho capito ha appoggiato una vostra manifestazione in questi giorni? Allora, proprio oggi il municipio ha deciso, attraverso il consigliere Francesco Di Giovanni e poi anche attraverso la presidente Antonella De Giusti, di convocare questo evento, questa festa, questa manifestazione il 25 novembre. Adesso chiaramente io voglio spiegare come mi sto relazionando con i progetti chiari in rapporto al mondo politico. Ecco, ma le istituzioni vogliono che non solo l'attuale comune, ma anche forse i successivi governatori del comune, nel caso in cui cambiasse squadra, ostacolerebbero il progetto Chiara, soprattutto in quello stabile che appunto per le casse dell'ATAC vale milioni di euro. È naturale a questo punto che tenere tutte le istituzioni e tutti i partiti fuori da questa cosa, metterli tutti in un unico fronte contro i progetti e contro questa proposta, equivale praticamente ad un suicidio. Ed è secondo me molto meglio cercare tutte quelle forze che all'interno delle istituzioni come municipi e all'interno dei partiti, soprattutto all'interno delle loro fasce più giovani, si possano dire disponibili ad appoggiare questo, in modo da scatenare un dibattito interno anche alle istituzioni, ai partiti, tutte queste altre robe, perché prima o poi si riesca anche ad ottenere un appoggio ufficiale o comunque non solo un'aperta ostilità ufficiale, perché in tutte le istituzioni, in tutti i partiti ci sono un sacco di forze che sarebbero interessate, ci sono persone che ragionano, che pensano, ci sono persone con grandi ideali, è il momento di far saltare fuori anche loro, certo. È il momento di coinvolgerli al pari di tutti coloro che condividono questo progetto all'interno del progetto. Certo, questo, questo qui mi sembra appoggiato anche al municipio. Ho capito, è un ragionamento di purissima politica, cioè proprio Machiavelli primo liceo, niente di esagerato e niente di tremendo. Certo, certo, mi fa piacere e mi stupisce positivamente questa risposta delle istituzioni, che di solito in questo campo non sono molto piano. Prova a dirlo. Mi senti? Sì, eccomi. No, dico, mi stupisce positivamente questa risposta delle istituzioni, che in realtà sono molto avverse di solito a questi progetti, ma mi sembra positivo. Ti ringrazio anch'io per essere intervenuto nella nostra trasmissione e ci possiamo naturalmente riaggiornare quando ci fossero delle novità sugli sviluppi di questo progetto. Va bene. Grazie mille ancora. Allora, grazie ancora a voi e buona giornata. Grazie anche a te. Ciao. E buon lavoro. Grazie. Makes a fight. 2 più 2 fa 5, lo dicono i Radiohead, la canzone appena terminata dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Ancora mi dicono pagliaccio, io non lo so, cioè ancora mi continuano a insultare, mo la chiamerò sul serio. Ma mi avevi chiuso il microfono? Te l'avevo chiuso, sì, scusa. Ah, merda! Vi dicevo 06491750, lo ripetiamo ancora, il numero per contattarci, ondarossa@ondarossa.info, la mail della radio, regionair@ondarossa.info, la mail della trasmissione. E sono le 16 e 40 minuti e 10 secondi, ti ho rubato la parte. 12, 13, 14, ti sei sbagliato, hai visto? Dunque, prima di questa corrispondenza, rispetto a questo progetto molto interessante che noi condividiamo, parlavamo del 7 ottobre, stavamo finendo di raccontare la nostra avventura più vissuta come una partita di calcio, che come un corteo con i vari dribbling su tutte le vie della città, terminata con l'occupazione di Stazione Ostiense, che è stato un obiettivo, insomma, una buona uscita, direi, no? Come primo giorno di mobilitazione. Appunto, poi ricordiamo, nel corso del corteo comunque abbiamo fatto capire come la nostra protesta, come dicevamo anche la settimana scorsa in trasmissione, si è ampliata, non riguarda più soltanto la Gelmini e i problemi con la scuola. La Gelmini che tra l'altro ci ha chiamato, tutti sui giornali, no? Che ha chiesto formalmente scusa e allora noi abbiamo deciso di invitarla in trasmissione. Ci è arrivata una mail, anzi un comunicato stampa, in cui ci diceva che purtroppo non poteva venire perché doveva inaugurare un ponte radio, quindi... Su Messina? Sì, su Messina. Un ponte radio sullo stretto di Messina e tra le Alpi, insomma, arriva direttamente dalle Alpi, così fanno prima. Ho capito. E così appunto non è potuta venire, però si scusa ancora con tutti gli studenti e quindi noi la risalutiamo, la nostra cara Germini. Ok, la mandiamo di nuovo a quel paese. Oh yeah. Say I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. Oh she's my baby. Don't you understand? Vabbè, dai, torniamo a parlare seri, che insomma... Io stavo parlando, mi avete interrotto con questa cazzata. Comunque, stavo dicendo che la protesta si è ampliata veramente. Cioè che oltre a non starci zitti tutto quest'autunno e non solo, porteremo avanti tematiche che non si basano appunto sui problemi della Gelmini, che neanche viene qua in trasmissione, ma tutta questa crisi allucinante, appunto durante il percorso, questo percorso un po' particolare del nostro cortello, abbiamo dimostrato, abbiamo fatto una serie di azioni anche davanti alla BNL vicino Stazione Trastevere, appunto abbiamo fatto capire che questa crisi non ci sta bene e che ci hanno rotto le palle. Certo, le banche sono solo un oggetto simbolico, insomma le azioni sulle banche sono state una cosa simbolica per identificare i nostri nemici, se così li possiamo chiamare, poiché appunto la nostra mobilitazione si va a spostare a una discussione contro la crisi più in generale, nel senso i problemi della scuola li sanno tutti, ma adesso la situazione dei giovani si continua ad aggravare non solo per quanto riguarda la scuola ma anche per quanto riguarda il resto. E abbiamo individuato, come individuano le altre realtà del movimento, le banche come responsabili della crisi e per questo le abbiamo prese in oggetto per fare delle azioni dimostrative. Sì, infatti ricordiamo che contemporaneamente a noi si è mossa anche Milano, con gli studenti di Milano organizzati che sono andati a fare un'azione davanti alla Moody's, che è l'agenzia di rating appunto lì a Milano, e noi insieme a loro appunto condividiamo la stessa lotta. Certo, e da qui il 7 ottobre è stata rilanciata anche durante il corteo degli studenti, il corteo del 15, di cui sicuramente avrete sentito parlare proprio da questi microfoni, la giornata di mobilitazione transnazionale. Io in realtà ancora non ho capito perché transnazionale e non internazionale, ma vabbè, queste formalità che a noi non interessano. Giornata del 15 che di nuovo vedranno i studenti scendere in piazza insieme a tutte le altre realtà per una situazione che si sta creando nella società che non ci sta più bene affatto. E questa è Andate tutti a fanculo degli Zen Circus. Al cinismo più bieco e posato, tipo quello da cantautorato, esser stronzi è dono di pochi, farlo apposta è roba da idioti. A chi è andato a vivere a Londra, Berlino, a Parigi, Milano, Bologna, ma le paure non han fissa dimora, le vostre svolte sono sogni di gloria. Figli di troppo, di madre noiosa, d'arte pensiero che esce dal corpo, né più e né meno come lo sterco. Alle donne, agli uomini e froci, vi amo, vi adoro e ricopro di baci, corpi ignudi, disgraziati o armoniosi, perdenti per sempre. In diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa, Region Air, la trasmissione degli studenti medi auto-organizzati, abbiamo in linea un compagno di Ostia, se ci sente. Ci senti? Sì, ci sono. Ammazzo, oggi tutti i collegamenti ci funzionano benissimo, siamo felicissimi. Senti, noi stiamo facendo un sondaggio qui dell'area di ogni trasmissione, chiama una persona e ti volevamo chiedere, tu il 15 ottobre, ne stavamo parlando adesso, sai che c'è questa grandissima manifestazione transnazionale, no? Ne sei a conoscenza, immagino, insomma, ti sento così sicuro, scendere in piazza? Sì, ci sarò sicuramente. Ecco, la domanda chiave è, cosa ti porti il 15 ottobre? Allora, il 15 ottobre io mi porterò il mio book block. Ah, fantastico. Il book block che caratterizzò quella fantastica giornata del 14 dicembre. E che ci ha accompagnato, esatto, in tutte, sì, le manifestazioni, sì, dall'anno scorso fino adesso. Guarda, fantastica idea, speriamo che il 15 ottobre raggiungerà un bel livello di conflitto, perché veramente ci siamo tutti rotto il cazzo, e immagino dalla tua risposta che anche tu sei d'accordo con noi. Esattamente. Ti ringraziamo ancora, ti auguriamo un buon pomeriggio. Allora ci vediamo il 15 in piazza. Ciao. Ciao. Mi dicono che è arrivato un messaggio da un ascoltatore specialissimo. Chi è? Sì, ci hanno comunicato che ci stanno ascoltando addirittura dalla Germania. I compagni, ammazzo, che si sono trasferiti a studiare all'estero, li salutiamo calorosamente, beati loro che stanno là state là, non tornate mai. Vabbè che lì, cioè, farà un po' freddo, qui per fortuna è riuscito il sole, fa un po' più caldo oggi, però veramente lì immagino che stia molto meglio. Magari un giorno ci riusciamo a collegare telefonicamente e farci raccontare quanto si sta bene. E al di là del vetro già stanno affluendo le ragazze del martedì autogestito da femministe e lesbiche. E ricordiamo, l'appuntamento è tra 10 minuti alle 5, appunto, col martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ci dicono che in realtà pure in Germania fa caldo, perciò beati voi, cioè, avete proprio tutto, il sole, l'università buona, i germani di così, se poi, guarda, veramente. Mannaggia! secondi nello studio di Radio Onda Rossa 87.9. Vi ricordiamo ancora una volta il numero telefonico, non ci ha chiamato nessuno che parla, io mi sento un po' solo. 096 49 17 50, il numero da chiamare. E in questi ultimi 10 minuti di trasmissione che ci rimangono continuiamo ad ascoltarci un po' di musica. Prima è stata tagliata a metà I Got a Woman di Ray Charles, ce l'ascoltiamo da capo. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Town that's good to me. Oh yeah. Don't you know she's alright? Don't you know she's alright? She's alright, she's alright. Oh yeah. Mentre la mia dirimpettaia sceglie qualcosa che la aggrada da ascoltare da mettere in onda, ci ascoltiamo Kevin Spacey di Caparezza. Utilizzato tra l'altro anche per il nostro fantastico spot del 7 ottobre, spaccava, tutti l'avrete sentito naturalmente. Non per la politica dovete odiarmi, non per la voce nasale, ma per questo pezzo. Adesso avete un motivo, avete un motivo! Ma che film ha fatto Bruce Willis? Sapete se un film è in porto? The Others, sono loro gli spettri. Bello, poi se sta senso cosa cazzo ti aspetti? Hai presente Kevin Spacey? Sì. Bene, è l'unica sensuosa nei soliti sospetti. Se è il killer di Seven, Kevin Spacey. Cattivo di Superman, Kevin Spacey. Perfetto criminale, Kevin Spacey. Ho capito, non c'è bisogno che mi spetti. Time Academy Award winner Kevin Spacey is coming back to the big screen this week. And the winner is Kevin Spacey! Kevin Spacey, Kevin Spacey. L'enigmista è cadavere della prima scena. Il codice da Vinci, il Graal e la Maddalena. Blair Witch Project non è una storia vera. Uccidi tu se ne vale la pena. Io e Marley, alla fine il cane muore. Nel film a Cicco, Vigo! Come cinema con cinepanettone. In profondo rosso l'assassino e la madre. In Psycho Norman è l'assassino della madre. Se ti interessa il genere ti basterà guardare Porta a Porta. Primo canale. In Sid e Nancy. Sid uccide Nancy. Sid eccessi. Sempre lì nei cessi. Il colonnello di American Beauty è gay. Sì. Ed uccide Kevin Spacey. Ok, direi che possiamo tagliare. La nostra amica si è decisa, finalmente ha trovato ciò che la aggrada. Vediamo questi di linguaggi di pausa. Corti da Matteo proprio nei momenti meno opportuni, dopo aver sparato giocolerie, diciamo così. Ma cosa non dici? Io sono sempre stato serissimo, senti. Ma fammi il favore. Fatto sempre dei ragionamenti che voi non siete neanche in grado di immaginare. Senti, vabbè, insomma, troppo intelligente questa canzone, visto che sei... Divertimo se ci vuoi presentare la canzone, così cioè, poi ce l'ascoltiamo, perché insomma si è fatta una certa. Ma sì, direi che possiamo passare dalla giungla italiana a un nuovo paese che è il Latino America, nello specifico il Venezuela, dalla quale è stata prodotta questa canzone, De Donde Vengo Io. De Donde Vengo Io. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente, Hace el día este soleado, te la pasas en Guayabao. Toma.